generale, ma hanno chiesto informazioni sulla questione dello studio dei testi. Quella era semplicemente un modo di dire introduttivo. Attualmente ci sono queste 6 ore in cui dovremmo condividere testi, oppure se uno di voi ha una materia di studio e ha studiato qualcosa in particolare, oppure ha esperienza diretta del settore che magari ha lavorato in reparti o qualcosa di simile, vuole resocontare la sua esperienza, ci sono questi 3 incontri per un totale di 6 ore dove deve avvenire appunto questa condivisione. Questi 3 incontri, lo ripeto, sono l'11, il 18 e il 19 maggio e entro fine aprile, inizio maggio dovreste spedire una mail mi sembra sia seminaripsichiatria@gmail.com, sì, sarà un etere, ripeto, seminaripsichiatria@gmail.com, dove dovreste dirci come vi dividete, nel senso se siete da soli oppure in gruppo, di che cosa parlate, in modo tale che organizziamo bene queste 6 ore. Sul sito ondaperuta.noblogs.org trovate le registrazioni delle lezioni e una bibliografia per alcune lezioni, purtroppo non siamo riusciti ad averle per tutte, però ad esempio per quella di oggi la trovate e anche per quella del professor Sorrentino. Così magari se cercate qualche spunto o qualche testo in particolare lo potete trovare lì. Adesso lascio la parola alla professoressa Marella, docente di diritto privato alla facoltà di giurisprudenza. Era La legge comunque Basaglia e l'idea liberale. La legge Basaglia e l'idea liberale di capacità. E per capacità, riferita ovviamente alla persona, capacità cioè di compiere atti giuridici. Per parlare di questo, faccio prima un'introduzione su quelle che sono le strutture fondamentali del diritto liberale e poi parlerò di qual è il problema che si pone rispetto al diritto privato con l'entrata in vigore della legge 180, se e in che misura ci sono stati poi adeguamenti alla logica della 180, e poi da qui Luca Cruciani che ci dirà qualcosa perché non ho fatto in tempo a ricordare delle cose. Ci dice quali sono invece i tentativi, se non ve ne abbia parlato qualcuno, di manomettere in qualche modo la 180. Allora, iniziamo col dire che quando parlo di diritto, no, un'avvertenza, siccome non so quanti di voi sono familiari col diritto privato in particolare, quando ci sono cose che non si capiscono, per favore mi interrompete perché è inutile andare avanti se non ci sono appunto dei dubbi grossi o anche dei termini che non si conoscono. Io cercherò ovviamente di evitare che questo inconveniente sorga. Comunque, quanto tempo abbiamo? Chiudono, ci cacciano? Fino tipo fino alle 7:30, 7:15, poi un po' di dibattito, ci mandano via molto velocissimo. Va bene, allora, quando si parla di diritto liberale, in realtà si parla di quelle che sono, cioè di quella che è la radice del diritto vigente. Il diritto liberale si identifica sostanzialmente col diritto moderno, vediamo ora in che cosa. Un giurista nel XIX secolo, un giurista inglese, Alexander Maine ha descritto il diritto moderno come un diritto che passa dallo status al contratto. Cioè, che cosa vuol dire? Che il diritto di cui parliamo è il diritto che supera le strutture feudali, l'organizzazione della società feudale, che è un'organizzazione, come ricorderete, o ci sono persone qui dentro che sicuramente lo sanno molto meglio di me, visto di che parte, che è una società organizzata in un modo gerarchico dove I rapporti economici, i rapporti politici sono strettamente connessi, nel senso che per esempio, l'appartenenza del territorio avviene in base ad un atto politico, no? Di concessione da parte del sovrano, ad un nobile, che in quella sede, in quel territorio, dispone di quel territorio, ma è anche titolare della giurisdizione, quindi esercita un potere politico, ma nello stesso tempo ha anche questo rapporto col territorio. La società è organizzata gerarchicamente così che i soggetti sono inquadrabili, le persone sono inquadrabili in base appunto al posto che occupano in questa gerarchia. E quindi sono qualificate anche giuridicamente in virtù dello status che rivestono. Nel diritto si dà una definizione abbastanza così asettica di status come la posizione che un soggetto ricopre rispetto alla comunità. Ora consideriamo che per esempio quindi lo status civitatis, cioè la situazione di cittadino, è no, connota la posizione di una persona rispetto allo stato in cui risiede, se appunto gode della cittadinanza. Oppure nel nostro diritto abbiamo ancora lo status familiare, cioè la posizione di madre, padre, figlio che si ha all'interno della comunità familiare. Ora invece nella società feudale, nel diritto medievale, gli status sono infiniti, sono molti, connotano la posizione sociale della persona all'interno della comunità. Quando si dice che il diritto moderno passa, abbandona lo status per accedere a un'idea di contratto, dove cioè la posizione del soggetto non è più statica, ma è definita dalle relazioni contrattuali che stringe, si dice qualcosa che implica proprio un cambiamento rivoluzionario nel concetto stesso di persona. Perché la persona, perché il diritto liberale, il diritto moderno, fa tutta una serie di operazioni che servono sostanzialmente a fare in modo che la classe costituente di quella trasformazione, cioè la borghesia, possa svolgere al meglio la propria attività, quindi sia proprietaria e possa strutturare un mercato che funzioni, perché è questo che sa fare, che ha interesse a fare. Dunque il diritto liberale struttura le basi per il funzionamento del mercato. La prima operazione è quella quindi di abolire queste posizioni di status e di unificare il soggetto di diritto, che diventa unico, nel senso che tutte le persone sono capaci, sono soggetti di diritto. Quindi il diritto liberale si basa su una nozione di uguaglianza formale, che vuol dire che non si guarda evidentemente a quelle che sono le differenze di condizione sociale, no, economico delle persone, però astrattamente tutti i soggetti sono uguali. Ora qui poi si può, cioè i giuristi hanno molto discusso ovviamente di questo concetto di persona o di soggetto. Il concetto di soggetto giuridico, di soggetto di diritto è anche estremamente formalizzato. I giuristi più formalisti parlano addirittura del soggetto come fattispecie. Che cosa vuol dire? Che il soggetto non è in realtà una persona incarnata, ma è un centro di imputazione, cioè è un'entità a cui fanno capo situazioni giuridiche, e questo soggetto può essere anche una persona non fisica, può essere un insieme di persone, un'organizzazione che per esempio una società per azioni. Secondo altri, in realtà il soggetto, la nozione di soggetto richiama necessariamente la persona fisica, mentre invece il concetto di persona in senso giuridico, che non corrisponde alla persona in senso filosofico, ed è appunto questa entità, un'organizzazione, appunto una società per azioni, che diventa centro di imputazione, insieme alla persona fisica evidentemente, ma insomma al di là del fatto che la nozione di soggetto di diritto sia più larga o più ristretta, comunque è una nozione tendenzialmente astratta. Però quello che è importante è che è unitaria, perché questo soggetto deve poter essere al centro dell'attività che si svolge nel mercato, quindi non sono ammesse troppe differenze di condizione, perché le differenze di condizione poi inficerebbero la qualità e la certezza dell'attività giuridica che si compie nel funzionamento del mercato. Quindi, prima scelta quella di fare, di costruire una soggettività unica. Ora, io devo fare un disegnino, e quindi... non il codice, questo è molto male, mi sono dimenticata il codice civile. Va bene, questo è un errore gravissimo. Perché devo leggere per esempio l'articolo 1 del codice civile che ci dice che ci dà la nozione di capacità giuridica e ci dice sostanzialmente in un modo che è assolutamente incomprensibile per chi non ha un minimo di nozione della storia che sta dietro questo articolo, ci dice che il nato o la nata, cioè chiunque nasca da donna e nasca vivo o viva, è soggetto di diritto, cioè o meglio il codice usa una diversa dizione e dice ha la capacità giuridica. Quindi questa norma, che è contenuta nel nostro codice, che è il codice del vigente ora, che è il codice del 1942, ma comunque ha una tradizione che risale fino a con Napoleone del 1804, dove si ritrova una norma analoga. Dunque questa norma appunto è quella che sancisce questa uguaglianza in senso formale del soggetto di diritto. Quindi al di là delle differenze di genere, di qualunque tipo di differenza, almeno sembrerebbe, sono tutti uguali, siamo tutti uguali. Bene. Ora vediamo a cosa serve questo soggetto. Mi sentite così? Allora, questo è il soggetto dotato quindi di capacità giuridica ed è proprietario. Infatti dobbiamo subito dire che questa nozione di uguaglianza formale nasconde il fatto che chi opera nel mercato è, non opera, ma quando nel pieno, insomma nello sviluppo di questo del diritto liberale, quindi degli oggi che lavorano intorno a questo progetto, è un soggetto maschio, adulto, sano di mente, proprietario, quindi ambiente, possibilmente coniugato. In altri paesi, in altre realtà, si dice, si aggiunge anche bianco. Noi in Europa ce ne siamo occupati meno di questo fino a tempi più recenti. Negli Stati Uniti si sottolinea subito che questo concetto riguardava i bianchi, anche perché i neri erano oggetto di proprietà, evidentemente. Quindi non avevano quello status, appunto, di soggetto. Allora, è molto importante il fatto che il soggetto sia proprietario, perché l'essere proprietario è il presupposto per essere protagonisti nel mercato. Quindi il soggetto cosa fa? È proprietario e poi, cosa molto importante, si muove nel mercato. Come si muove nel mercato? Stipulando contratti. Però questa proprietà è anche alla base di qualcos'altro, no? Perché la proprietà è anche inerente e serve anche a, diciamo, è un background di che cosa? Della famiglia. E la proprietà può essere non solo alienata nel mercato attraverso contratti, ma si può anche trasferire per, come dicono i giuristi, mortis causa. Cioè c'è appunto una parte del diritto privato che si chiama delle successioni, no? E disciplina il trasferimento della proprietà al momento della morte. E quindi apriamo anche questa branca. Ora, tutto questo disegna la sfera privata. Possiamo dire sin da ora che da questa parte abbiamo una sfera di carattere patrimoniale e su questa, da questa parte si muove una sfera di carattere non necessariamente patrimoniale. Cosa c'è tutto intorno? Tutto intorno c'è il pubblico, c'è lo Stato. Molto importante, una caratteristica fondamentale dell'ideologia liberale, quella di disegnare un soggetto unitario che si muove nel mercato e stringe relazioni interpersonali con una certa struttura della famiglia, eccetera, di cui non possiamo parlare ora, e che in virtù della proprietà gode di una sfera di libertà. La proprietà rappresenta che poi nella nell'Ottocento, diciamo, quando i primi le codificazioni vedono la luce. Considerate che il primo codice più importante è con Napoleone del 1804, quel secolo si chiude con il codice tedesco, il Begebel del 1900. Questo è il secolo XIX, quindi, che consacra la codificazione, quindi il trionfo del diritto liberale, appunto disegna una proprietà come zona di autonomia, di libertà, zona franca. Della libertà si dispone in quanto soggetti capaci e liberi, e questo garantisce a maggior ragione la libertà del soggetto, il tutto in una sfera privata che è assolutamente distinta dalla sfera pubblica. Quindi, caratteristica fondamentale del pensiero liberale è la dicotomia pubblico-privato, che è una dicotomia che comunque affligge il pensiero dei giuristi e che è stato messo, per esempio, in discussione dal femminismo. Ora, quindi, il diritto privato come sfera di libertà e di autonomia, tutto intorno il pubblico, lo Stato che deve ingerire il meno possibile in queste relazioni che sono dentro questa sfera. Non a caso i codici rappresentano nell'Ottocento le vere costituzioni, perché sono il luogo dove si disciplina il rapporto fra gli individui e lo Stato. Ora, cercheremo dopo di capire questo schema come si anima. Ora, questo soggetto che abbiamo detto comunque essere in realtà non così astratto, anche no, presentato dalla filosofia giuridica come una sostanza, per tradurre una espressione tedesca che è Sittliche Vernunftwesen, cioè una sostanza dotata di ragione e morale, cioè capace un essere razionale e morale. Quindi il soggetto non è una cosa qualsiasi, in realtà è il soggetto razionale, è il famoso homo economicus, perché questo soggetto è attore del mercato, quindi tutto ciò che pone in essere nel mercato presuppone la sua capacità di autodeterminarsi razionalmente. Quindi è soggetto la persona razionale e morale. Ora, quindi, questa teorizzazione, che trova poi espressione piena nel codice, ma evidentemente inizia anche prima, si scontra davanti a una realtà. Cioè la realtà che poi non siamo tutti razionali e morali. E nella moralità ci sono anche persone che hanno comunque un corpo che può anche divergere da quelli che sono gli standard. Allora, ci si pone, per esempio, ne parla un giurista molto importante della fine del Seicento, non domani, si chiede, ma che cosa ne è, allora, di alcune categorie, come gli imbeciles, i monstra, i furiosi, i dementes, i mentecatti. E costoro non sono degli esseri razionali. E allora sono dotati di quella capacità giuridica di cui è l'articolo 1. Quando siamo in una fase, domandici no, in realtà, che sì, non sono soggetti di diritto, perché non possono fare nulla di quello per cui il soggetto di diritto è demandato, quindi fuori. Un giurista tedesco molto importante, Thibault, nell'Ottocento, dopo le decine dell'Ottocento, quando è già entrato in vigore il codice napoleonico e si sta lavorando, anzi ancora allora neanche si sta lavorando, si pensa eventualmente, però la Germania non è ancora unificata in realtà, però, insomma si sta pensando comunque ad un codice tedesco. In una prima fase anche esclude gli imbecilli e i mostri, quindi il corpo, no? Cioè anche il fatto che il corpo abbia una sembianza normale. Mostri e imbecilli quindi fuori anche per lui, ma poi ci ripensa. E già nel 1834 scrive che tutte queste categorie sono soggetti di diritto, ma a quel punto è necessario fare qualche cosa. Bisogna trovare assolutamente una nozione che consenta ad alcuni di stare nel mercato e altri non starci. E quindi questa nozione, questo soggetto unitario, il soggetto giuridico, rimane sempre tale. Il presupposto è che nasca vivo. Quindi evidentemente il nascituro, il feto, eccetera, non è il soggetto di diritto, non lo è ancora oggi nel diritto italiano. Ora, questo soggetto unitario è appunto connotato dalla capacità giuridica, ma poi è necessario introdurre una seconda nozione per disciplinare la sua attività nel mercato. E dunque si scinde da questo nucleo originario della capacità giuridica un'altra nozione, che è la capacità d'agire. E la capacità d'agire è quella che più pienamente fotografa il calco di questo soggetto di diritto, appunto, uomo, bianco, adulto, possidente, eccetera, eccetera. Anche se ovviamente tutto questo non viene esplicitato, nell'articolo 2 del codice civile vigente si dice che gode della capacità d'agire il soggetto che ha compiuto, che ha raggiunto la maggiorità, salvo che non ci siano altre ragioni di limitazione della capacità stessa. Che vuol dire capacità d'agire? Mentre capacità giuridica, cioè la nozione di soggetto di diritto, vuol dire essere astrattamente idonei, essere titolari di diritti e doveri, capacità d'agire è strettamente connessa all'attività che si compie nel mercato. Il soggetto è proprietario, e qui proprietà vuol dire essere più in generale, essere significa anche essere creditore. Essere dotati di capacità di agire vuol dire poter disporre validamente del proprio patrimonio, quindi alienare i beni, quindi assumere la veste di debitore o di creditore, quindi avere delle pretese, poter validamente svolgere prestazioni nei confronti di altri soggetti. Bene, qua va detto che questa nozione, quindi la nozione abbiamo un soggetto di diritto unitario, tutti i soggetti di diritto sono tali perché sono dotati di capacità giuridica, alcuni sono dotati di capacità d'agire, tendenzialmente tutti e tutte dopo una certa età. Le incapacità speciali cui è stata sottoposta la donna coniugata, ormai vediamo per superare. Bene. Allora, va detto qualcosa a questo punto. Io ho parlato molto spesso di mercato, non vorrei però analizzare, perché il diritto liberale non è, poi cioè, è sempre sbagliato vedere le cose solo da un punto di vista o pensare che ci sia un unico principio ispiratore. Non è così, perché dietro questa elaborazione c'è anche il diritto naturale, c'è l'illuminismo, ci sono tante cose, tante scuole filosofiche molto importanti. Quindi il soggetto di diritto non è solamente la costruzione del mercato e i prodromi dell'orribile neoliberismo, no. Cioè, c'è anche tanto di più, c'è anche un'idea di uguaglianza che comunque è importante, no? Consideriamo che le leggi razziali del 38, praticamente in Italia, inseriscono proprio con una frattura rispetto anche a quell'articolo primo del codice civile che sembra così insignificante in qualche modo, no? Che le leggi razziali privano della capacità giuridica gli ebrei. Quindi, comunque, stiamo parlando di una cosa non stupida, stiamo parlando di una conquista anche importante. Il fatto, naturalmente, detto questo, comunque, voglio anche dire, e ora iniziamo a parlare della situazione del malato di mente, voglio anche dire che quello che vedremo ora non è effettivamente il frutto di una discriminazione o di un pensiero, di una volontà discriminatoria. In ogni caso la capacità d'agire serve, è il connotato per dare certezza ai rapporti giuridici. E quindi la eventuale limitazione della capacità d'agire, cioè disporre validamente il proprio patrimonio, servono a questo, non è che ci sia una volontà di discriminare, però naturalmente l'esito surrettizio è poi chiaramente una marginalizzazione all'interno della società. Bene, allora, vediamo subito quali sono queste limitazioni della capacità d'agire. La persona malata di mente, in modo stabile, può essere soggetta ad un procedimento che culmina con un provvedimento del giudice con cui viene interdetta interdizione. Non può compiere, che cosa vuol dire interdizione? Interdizione fa sì che questa persona non ha di più, anche se è maggiorenne, venga privata della capacità d'agire. Questo comporta che non possa porre in essere da solo nessun atto valido dal punto di vista del diritto, o quasi. C'è una misura di la capacità un po' attenuata, che è l'inabilitazione, e riguarda una categoria di soggetti, alcune categorie di soggetti. La norma, perché abbiamo il codice, è carina, perché è abbastanza anche un po' old fashioned nel tono che usa, perché sono, per esempio, da inabilitare, l'inabilitazione sono da inabilitare i prodighi, cioè coloro che spendono troppo facilmente, tutta una serie di soggetti che sono tutto sommato non così malati, non così incapaci di autodeterminarsi razionalmente, però hanno bisogno di assistenza. Questi due istituti, l'interdizione e l'inabilitazione, sono chiamati misure di protezione dell'incapace. Che cosa comportano questi due istituti? Comportano, nel primo caso, che il soggetto interdetto non possa disporre del suo patrimonio affatto, nel secondo caso l'inabilitazione possa compiere solo atti cosiddetti di ordinaria amministrazione. Siccome però uno degli obiettivi fondamentali, la differenza fondamentale nel passaggio dal diritto feudale, al diritto medievale, al diritto liberale, è la creazione di strumenti che servono a far circolare la ricchezza, sarebbe assolutamente contrario al diritto liberale che il patrimonio dell'interdetto rimanesse lì immobilizzato, perché lui è tanto incapace e quindi rimane lì bloccato. No, in realtà a questa esigenza, cioè l'esigenza che non si creino patrimoni e ricchezze statiche, provvede il tutore. Quindi quando una persona viene interdetta viene anche nominato un tutore che poi porrà in essere tutti gli atti necessari perché il patrimonio dell'interdetto sia comunque dentro al mercato, non costituisca un'isola a parte, no? Un'isola di staticità. Comunque è ricchezza che circola. Poi naturalmente il tutore può aver bisogno di autorizzazioni del giudice, eccetera, eccetera, a seconda del tipo di atto che vuole compiere, ma in ogni caso alla l'esigenza che il patrimonio dell'interdetto, dell'incapace, del malato di mente, sia comunque immerso nelle relazioni di mercato, soccorre appunto l'istituto dell'interdizione con l'attività del tutore. Anche rispetto all'inabilitazione, la figura del curatore consente la disposizione, quindi la circolazione del patrimonio facente capo all'inabilitato, limitatamente agli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, perché abbiamo detto che quelli di ordinaria amministrazione li può svolgere l'inabilitato da solo. E poi cosa c'è ancora? Stiamo parlando di un panorama pre-legge Basaglia e molto oltre in realtà. E poi c'è una norma, l'articolo 428, che disciplina una nozione che è l'incapacità di intendere e di volere, che non è dichiarata da nessun giudice, ma viene provata ex post se la persona che in quel momento ha un deficit di razionalità, diciamo, perché può essere, ubriaco, per esempio, o invece avere proprio un problema psichico, ma momentaneo, appunto, in queste condizioni può provare questa situazione di irrazionalità, di questo intervallo per impugnare, quindi porre nel nulla gli atti che ha posto in essere mentre era appunto in questo stato di obnubilamento. Questo non vuol dire che necessariamente poi la persona malata di mente sia una persona che non ha mai intervalli lucidi e l'incapace intendere di volere sia uno che invece ha ogni tanto un problema di offuscamento. Questo dipende dalle misure giuridiche che sono state assunto, perché se i familiari hanno avuto interesse a far interdire la persona, l'hanno fatta interdire anche se ha ogni tanto degli intervalli lucidi. Nel caso che interessi meno, questo aspetto magari che la persona di cui stiamo parlando non ha un patrimonio interessante da salvaguardare, magari non avrà alcun istituto di protezione, e però laddove ponesse in essere atti che sono pregiudizievoli per il suo patrimonio, potrebbe chiedere in sostanza l'annullamento di questi atti. Dunque, se torniamo al nostro schema, vediamo che la persona malata di mente, colpita, diciamo, nel caso oggetto, nel caso più comune di un provvedimento di interdizione, è quindi, non può porre in essere questi atti, ma tutto ciò che attiene gestione del suo patrimonio, atti di disposizione di carattere patrimonio del mercato, vengono comunque compiuti dal tutore. E quindi, in un certo senso, almeno il suo patrimonio rimane nel mercato. Il problema è che poi ci sono tutta una serie di atti che si definiscono personalissimi. Cioè che la persona interdetta, cioè che possono essere compiuti solo dalla persona direttamente, senza nessuna proposizione, senza la possibilità che vengano posti in essere da un suo rappresentante. Per esempio il matrimonio, per esempio il testamento. Allora, se consideriamo la persona dell'interdetto, che cosa ci accorgiamo? Che la persona interdetta non può affidare il compimento degli atti personalissimi al tutore, perché appunto, che sono personalissimi, allora non li compie e basta, chi se ne frega. Quindi non si può sposare, non può fare testamento, può riconoscere un figlio naturale, ma solamente se quest'atto lo viene compugnato. E quindi che cosa accade? Che per quanto riguarda la sfera non patrimoniale, questo soggetto è del tutto ingessato. Per quanto riguarda la sfera patrimoniale, c'è la garanzia che il suo patrimonio venga gestito ma da altri. Quindi, dicevo, lo scopo prioritario di questi istituti dell'interdizione di riabilitazione non è quello di porre un'etichetta di discriminazione sul soggetto, serve veramente a far sì che il patrimonio riguardato da questa persona sia comunque, possa comunque circolare, non venga pietrificato, nella persona non interessa granché, anzi affatto. Non è questo lo scopo del diritto liberale. Ora, questo è grosso modo, diciamo, il quadro che noi abbiamo quando entra in vigore la legge 180. La legge 180, come sapete, chiude i matrimoni e quindi consegna, almeno teoricamente, perché poi sapete che le cose non sono andate proprio così, non è che subito i matti sono usciti e sono andati in giro e hanno potuto inserirsi nella società, ma diciamo che comunque questa è la prospettiva, era la prospettiva, questo che poi che è avvenuto nella maggior parte dei casi. Quindi queste persone, i matti, devono comunque inserirsi nella società. Devono potersi, quando non sono, diciamo quasi sempre, insomma, quando non sono soggetti a trattamenti sanitari obbligatori, devono potersi affittare un appartamento, andare a ritirare la pensione, eccetera, eccetera. A fronte di tutto questo, come risponde il diritto privato con l'interdizione? Cioè non possono fare nulla. Allora, evidentemente, nel sistema giuridico si crea una tensione, no? Fra una legge molto innovativa, molto avanzata, che aveva chiuso i manicomi nella prospettiva di inserire i matti nella, nel tessuto sociale, di integrarli, no? Di farli sale nella comunità a cui appartenevano. E un diritto privato che continua a essere quello che era prima, senza che nessuno per 10 anni quasi si ponga alcun problema. Finalmente nel 1986 un giurista di Trieste, non a caso, nel frattempo Vasari era morto, era un amico di Franca Onda, era una moglie, ma organizza un convegno che poi darà luogo ad una pubblicazione che si intitola Significativamente un altro diritto privato di medico, in cui finalmente ci si pone il problema, si dice ma come si fa da una parte avere una legge così avanzata, aver sposato un'idea di malattia mentale come un confine mobile, labile, non un'idea dicotomica, no? Malattia mentale contro salute mentale, normalità contro normalità, regolarità contro devianza. La legge 180 supera, no? Questo modo di ragionare. Invece il diritto privato rimane legato alla dicotomia capacità-incapacità. E però questo non è solamente dal punto di vista discorsivo, ideologico, un problema, è un problema poi pratico, perché queste persone che sono uscite dal manicomio, poi in sostanza non si sa come possano poi gestirsi, anche perché, ritorniamo al problema che dicevamo, cui accennavo prima, la questione l'istituto interdizione, quando entra in gioco? Entra in gioco quando ci sono patrimoni importanti. Allora i familiari si interessano della questione, come si gestisce il patrimonio di questo qui. Prevediamo l'interdizione, uno di noi si farà nominare tutore, quindi così si risolve. Ma quando non c'è un patrimonio importante, tutto questo questo meccanismo non si mette in moto, e però tutti gli atti che compie una persona così possono essere annullati perché la persona è incapace di intendere di volere. Ma se una persona è incapace di intendere di volere e si vede, nessuno vorrà fare contratti con lui, perché si sa che comunque non è che lo possa fare, lo può fare, però è un atto instabile, perché poi è soggetto a impugnazione, perché poi si può far valere la sua annullabilità, e quindi non è interessante porre in essere dei contratti, delle relazioni contrattuali che poi non hanno stabilità, non hanno certezza. Quindi questo provoca marginalizzazione di queste persone. Per esempio, l'incapace dal punto di vista della responsabilità civile, cioè se cagiona danni ad altri, non è responsabile, salvo che non si sia provocato l'incapacità da solo. Per esempio, non so, prendo un'enorme quantità di alcol. Anche questa, che sembra una misura protettiva, in realtà non lo è, perché serve a fare dell'incapace una persona anormale, sostanzialmente, che quindi deve vivere ai margini, non può stare insieme agli altri, perché mentre le altre persone, quando cagionano un danno, poi lo risarciscono, lui no, quindi l'esito iniquo sostanzialmente è che poi il peso del danno rimanga là dove si è prodotto, cioè nel patrimonio della vittima. Quindi sono tutte conseguenze che enfatizzano molto lo stato di emarginazione delle persone malate di mente che escono dal manicomio. Finalmente, dicevo, questo giurista Paolo Cendol si pone questo problema, avverte questo problema, organizza questo convegno in cui finalmente i civilisti iniziano a parlare di questi problemi, e quindi fotografano una situazione la sua. A questo punto ci si pone la questione di come fare a inserire le persone che hanno problemi mentali dentro la società. E quindi questo Chandon elabora con l'aiuto di molti altri che partecipano un progetto che è anche ricalcato su alcune legislazioni straniere, perché per esempio in Francia, quando è stata varata una legge simile alla Vasaglia, poi dopo il codice civile è andato dietro e quindi hanno eliminato l'intervenzione e hanno creato un istituto di salvaguardia che comunque consentiva alle persone di fare alcune cose, di essere magari accompagnate, assistite, ma senza eliminare la capacità di agire. In Italia, appunto, Cendone e suoi scrivono questo progetto chiamandolo dell'amministrazione di sostegno, ma non riesce a vedere la luce. Quando Rodotà era parlamentare quando era nella sinistra indipendente, presenta una prima volta questo progetto, ma non viene approvato. Poi c'è anche un racconto carino di Cendon che dice: a un certo punto incontrano allora un burocrate, un tizio del ministero, di un ministero, che dice: ah no, adesso qui è una questione di tecnica, di tecnica legislativa, cambiamo tutto. Però non dobbiamo ritoccare il codice civile, perché se dobbiamo ritoccare il codice civile andiamo alla commissione giustizia, diventa di competenza del Ministero della Giustizia per rifare questa legge. Quindi verrà nominata una commissione, poi viene una commissione di studiosi, poi viene discusso in commissione giustizia, lì ci sono un sacco di parlamentari, a chi più poi si vuole mettere in mostra, gli dicano fra di loro: per carità, evitiamo. Invece facciamo una questione puramente sanitaria. Così si fanno diverse discussioni in una diversa commissione e la cosa andrà meglio. Viene stravolto completamente questo progetto, ma neanche a parlarne. Si continua a non approvare questa legge. Qual era l'idea di fondo? Appunto, era quella di cercare di adeguare gli strumenti civilistici a quella che era la prospettiva della legge Vasaglia, quindi superare la dicotomia capacità-incapacità, consentire ai soggetti di svolgere la cosiddetta contrattualità minima o quotidiana, cioè andare a ritirare la pensione, pagare una bolletta, prendere un immobile, un appartamento in locazione, anche andare a fare la spesa, perché in teoria anche andare a comprare il pane poi diventa un'altra nullabile, insomma, no? Se non c'è una diversa struttura giuridica che accompagni queste cose. Quindi l'amministrazione di sostegno nasce con l'idea proprio di superare questa dicotomia, di non pensare più al patrimonio, cioè non interessa più il patrimonio, interessa la persona, consentire ai malati di mente di interagire, essendo aiutati laddove serve, quindi struttura estremamente flessibile, non un pacchetto preconfezionato come sono interdizioni e inabilitazione, prendere o lasciare, ma invece misure che vengono decise dal giudice volta per volta a seconda della condizione della persona. Questo progetto, non so bene per quale via, a un certo punto trova un'applicazione, prima che tutto questo diventi legge, in Umbria, via Perugia. C'è una psicologa della ASL, che io poi ho conosciuto proprio in seguito a questa vicenda, che si chiama Assunta Pierotti, che si rende conto appunto della difficoltà in cui versano alcune persone. In particolare incontra un ragazzo molto malmesso, malato di mente, che lei curava, che stava corpo mal vestito, aveva bisogno di un dentista ma nessuno ce lo portava, tutto questo genere di cose. E pensa che sia una persona assolutamente indigente. Invece no, si scopre che questa persona aveva una certa pensione, cioè alla fine aveva un sacco di soldi in banca, avrebbe potuto vivere molto meglio di come viveva, ma nessuno lo aiutava. E lui da solo non poteva fare niente. E insomma, allora questa donna si rende conto che questi sono i problemi, no? da affrontare anche sul piano giuridico. Anche poi chi lavora nella sanità ha un problema grave, perché come possono fare? Quale veste giuridica aveva lei, per esempio, per andare a prelevare soldi dal suo conto o aiutarlo a gestire questa pensione? Nessuno, avrebbe possono essere degli altri che erano, no? Che non avevano un fondamento giuridico, non aveva competenza per farlo, non rivestiva un ufficio che le consentiva di far questo. Insomma, quindi però per qualche motivo rintraccia, viene a sapere che esiste questa bozza, questo progetto, che diventa, che quindi viene in qualche modo adottato dall'ASL di Perugia, che istituisce un servizio, un ufficio tutele, e iniziano a dare corso a questo esperimento. Dopo qualche anno, invece, ma stiamo parlando del 2004, questa è la legge, l'amministrazione di sostegno diventa legge, quindi dal 78 sono stati 26 anni prima che il codice civile si adeguasse minimamente ai cambiamenti che aveva introdotto questa, no, la legge Basaglia. Con il che però va detto che nel corso del suo cammino parlamentare questa legge è stata un po' stravolta, insomma, non è veramente soddisfacente, perché comunque è una misura in più che si aggiunge, ma non ha stravolto la struttura dicotomica del codice, per cui la struttura liberale per cui un soggetto è capace o è incapace, perché l'interdizione rimane, le abilitazioni rimangono. E ciò che invece era auspicabile era proprio superare completamente questa prospettiva. Anche perché poi, un po' come è accaduto in passato, l'interdizione ancora viene usata qualche volta anche un po' come arma contro la devianza o contro per governare dei dissidi, dei rapporti familiari complicati. Mi è capitato di trovare una sentenza molto, molto recente, 2006 forse, o 2008, di una che riguarda una anoressica, una donna, una trentenne anoressica, che alla fine viene interdetta su istanza dei genitori. Cioè, una persona anoressica è perfettamente in grado di autodeterminarsi, salvo che per alcune cose che riguardano certo la sua vita, ma per esempio potrebbe benissimo stipulare dei contratti, no? Sarebbe proprio l'essere razionale e l'uomo economico, insomma, meglio la donna economica, che fornisce il calcolo alla soggettività giuridica, no? Però invece sarebbe interdetta, perché alla fine la famiglia non ne poteva più, perché non si alimentava, non prendeva i farmaci, non sapevano come fare. A un certo punto hanno pensato di ricorrere a questa misura estrema e il giudice ha accolto questa domanda, dunque è stata interdetta. Perciò, insomma, come vedete, sarebbe molto importante, no, invece, superare questa dicotomia, questa opposizione, capacità e incapacità, anche perché si tratta di un'idea molto obsoleta, come insomma la legge Basaglia ha denunciato a chiare lettere. Per esempio, l'idea di capacità anche rispetto alla famosa incapacità di intendere e di volere, dovrebbe essere un'idea relazionale, non è che un soggetto è o capisce o non capisce, o è capace o non capace, o è razionale o irrazionale. Ci sono delle situazioni che creano queste cose, quindi andrebbe tutto calibrato no? In relazione al contesto in cui una persona si muove, le vicende che vive in una certa situazione. L'amministrazione di sostegno è là dove si ricorre a questa capacità anche di analizzare il contesto, perché è uno strumento che permette questo, proprio perché poi il giudice in sostanza fa un provvedimento che è proprio ritagliato sulle esigenze e sulla condizione di quella persona, non è una misura stabilita dal legislatore una volta per tutte e per tutti. Quindi ha questo carattere di maggiore flessibilità, però ripeto, comunque sì, è stata collocata in una cornice in cui c'è sempre l'incapacità, lo spettro dell'incapacità sullo sfondo. Ora, per peggiorare questa situazione, che comunque abbiamo detto è incompleta, l'amministrazione di sostegno da una parte ha trovato, devo dire, molta sensibilità nei giudici, sono un sacco, anche a Perugia sono delle donne bravissime, delle magistrate che fanno provvedimenti di amministrazione di sostegno con grande intelligenza, con grande sensibilità, anche per esempio provando ad applicarlo come, diciamo, proxy, come sostituto del testamento biologico, perché la persona non è ancora capace, nomina una persona che poi può diventare il suo amministratore di sostegno e che decide del suo fine vita. Ci sono dei giudici che lo stanno facendo, quindi è uno strumento anche interessante che i magistrati stanno usando abbastanza bene, però rimane sempre il fatto che comunque c'è sullo sfondo questo blocco dell'interdizione. Tutto questo poi non è solamente un ostacolo a, se vogliamo dire così, un'evoluzione del diritto, ma invece questa idea dell'incapacità che permane è molto dannosa, perché legittima anche dei ripensamenti, chiamiamoli così, sulla legge 180. Perché il fatto che comunque il nostro diritto si continui a parlare di incapacità a ragion veduta, poi alimenta anche o legittima delle tentazioni di porre mano alla 180, di manometterla, di disinnescarla in qualche modo. Non so se Luca ci vuoi dire qualcosa a questo proposito, o come vuoi, penso che insomma, sono stati presentati dei disegni di legge che vogliono riformare, come dicono gli impegni, la legge 180. In occasione del trentennale della legge 180, cioè nel 2008, sono stati presentati a raffica una serie di proposte di legge e disegni di legge. Io ve la faccio molto breve, spero semplice per non annoiarvi. C'è una proposta in particolare che si concreta in un vero e proprio assalto alla Basaglia. Io l'ho letta e sembra uguale e contraria, se si leggono gli articoli, che hanno un'impostazione un po' più asettica. La relazione introduttiva a questa serie di articoli è invece un assalto molto, molto forte alla filosofia della Basaglia. Io vi sto parlando della proposta che fa capo a Guzzanti e che è del maggio 2008. Non so se sapete qualcosa degli articoli della Basaglia, della regolamentazione della Basaglia, credo di sì. Io dirò solo due cose solo per farvi capire come cambia. Le altre proposte sono una galassia di proposte molto simili, cambia soltanto la nomenclatura. Sulla Basaglia dirò due cose proprio minime, proprio per farvi apprezzare la differenza. Due punti nodali della filosofia Basaglia tradotta nella legge 180 erano chiaramente la chiusura delle strutture manicomiali che avevamo in Italia di diciamo dal 36, c'erano diversi assetti normativi, però diciamo a pieno regime dal 36, e la costruzione del trattamento sanitario obbligatorio, ne sapete diffusamente, però come extrema ratio. L'estrema ratio come ultima misura presuppone come suo dato caratteristico anche la temporaneità di questa misura. Questi sono i due punti contro i quali la proposta Guzzanti si scaglia in modo anche abbastanza... Guzzanti il comico. Beh, stando al risultato si potrebbe dire questo, invece il padre, chiaramente. Allora, il primo punto della proposta Guzzanti è proprio una forte, dico con un brutto termine, un reinserimento delle strutture manicomiali. In particolare l'articolo 2 di questa proposta introduce una vera e propria piramide di strutture, tutte con un impianto di tipo verticistico, ve ne vorrei leggere in modo che anche i nomi sono brutti. Si fa capo ad un dipartimento di psichiatria, che è il vertice di questa piramide, segue poi una carrellata di strutture che sono sottoposte a questo dipartimento di psichiatria, che avrebbe nell'intenzione dei proponenti il compito di coordinare il servizio di prevenzione, diagnosi e cura del malato mentale. Sotto questa struttura di vertice ci sono il centro di salute mentale, che si occupa materialmente anche di TSO, e conseguono il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, il pronto soccorso psichiatrico, la clinica psichiatrica umanizzata. Clinica psichiatrica una selva di strutture residenziali protette. Tutta una serie di strutture che debbono, nell'intenzione del proponente, creare un circuito di cura con un alto tasso di reclusione, perché poi in ogni struttura è previsto un periodo di soggiorno più o meno forzato a seconda dell'entità del problema psichico da cui si è affetti, quando invece la filosofia del Vasaglia era esattamente l'opposto. Quindi questa è una reintroduzione anche abbastanza manifesta di strutture manicomiali, paramanicomiali. Ce ne sono davvero tante, io vi ho elencato la principale, le principali. Il secondo punto sul quale c'è stato dibattito, anche ci sono state critiche anche all'indomani dell'introduzione, è il TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Vi ho detto, al di là dei dettagli più tecnici, che nella Vasaglia è una misura di estrema ratio. Il punto che si modifica è la durata. Secondo la Vasaglia, ci sono delle varianti, però secondo la Vasaglia il trattamento è previsto per 7 giorni al massimo, poi prorogabili con dei meccanismi. Qui i trattamenti sanitari obbligatori durano 30 giorni, con due possibilità di proroga. Nella Vasaglia la proroga era sottoposta al vaglio di una commissione, che prevedeva anche membri non medici espressamente. Qui la disposizione del trattamento sanitario obbligatorio viene completamente medicalizzata. Uso questi brutti termini che poi sono nella relazione che introduce questa serie di articoli. Viene completamente medicalizzata, diventa una questione disposta dai medici per una durata molto molto lunga, e questa è una costante di tutti i progetti. Tutti i progetti parlano di trattamenti sanitari obbligatori di 30 o più giorni. Si parla di trattamenti sanitari prolungati. E tutti prevedono questa serie di strutture che sono mirate a creare un circuito parallelo, separato, tendenzialmente ispirato alla reclusione per i malati mentali. Quindi si va proprio contro la, la filosofia della Basaglia. Ecco, io finirei. Grazie molto. Oh, per, naturalmente questo genere di leggi, cioè di progetti quantomeno, vengono poi fomentati dal caso di cronaca, no? Poi enfatizzato ad arte, ah, il matto che uccide la vicina, la mamma, la moglie, quando un sacco di gente non matta, continua a ammazzare la mamma, la moglie, la vicina, però... Quando capita questo caso viene enfatizzato naturalmente con la finalità di creare il caso Basaglia, no? Come legge assurda che aveva una prospettiva sbagliata, ideologica, che ha fallito in tutto, eccetera, eccetera. Interessante anche il pronto soccorso psichiatrico, se una legge così dovesse essere approvata, guarda che ci mettono dentro a tutti, io vorrei un po' non smettere di adesso di fare la docente di diritto privato per dire alcune cose, se me lo consentite, di taglio diverso. Questo episodio degli arresti qui di Perugia, ma anche tante cose che vedo, alcune misure del pacchetto sicurezza, il reato di questo inasprimento, di questa figura dello Stato, della guida in stato d'ebbrezza, tante cose fanno pensare appunto ad una costruzione della devianza che tende a sostanzialmente a sovrapporsi all'essere giovani. Cioè, io, mi pare molto evidente che ormai la persona sotto i 30 anni è potenzialmente deviante e quindi come tale va controllata. A Roma sta succedendo qualcosa di molto pesante anche. Dopo i fatti di Tor Vergata c'è una sorta di, ma non so, è stata stesa una sorta di cortina protettiva, se la vogliamo chiamare così, però insomma evidentemente non è questo. Però insomma, in sostanza, mi è capitato di aver chiesto un'assemblea a Roma 3 con uno spiegamento di forze di polizia veramente pazzesco, perché erano 100 persone, cioè 100 studenti e tanti molti agenti, e con agenti seduti là, cioè proprio dentro, lì, cioè non solo fuori, ma proprio lì, adesso anche qua che mi trovano loro, insomma. E chiesto, ma qual è il motivo di tutta questa polizia? No, perché se arrivano quelli di blocco studentesco così non li fanno entrare, eccetera. C'è un commissariamento di qualsiasi cosa si faccia, allora quelli vanno a tacchinare i posti tutto dove non hanno consentito farlo e ci vanno tutte le volanti a scortarlo così. Allora, ragazzi, i collettivi fanno l'assemblea e tutta la polizia a proteggere. È una situazione veramente, cioè di emergenza, di anormalità, cioè fare una assemblea non è normale in sostanza, cioè una costruzione veramente della devianza, no? Che così che avviene anche attraverso questi atti quotidiani, però è una situazione molto molto, io trovo molto allarmante, anche perché perlomeno so qui come siano andate le cose, non sono stata per un giorno, però quello che ho visto a Roma è che gli studenti sono assolutamente soli, cioè non c'è nessuna forza politica per ora, sì, non fa comunicare, non abbiamo fatto, però non sono quasi nessuno. Quindi un'assemblea c'è andata avanti, un popolo viola, qualcuno, però in sostanza. È veramente un mondo a parte, luogo, no? Presentandosi in un certo modo. Io, boh, no, non voglio dire niente perché non sono qui in questa veste, però insomma penso che se qualcosa può nascere in Italia è da questa parte del movimento studentesco, se si può ripartire qualcosa, quindi raccomanderei di avere grande saldezza, insomma, per essere molto attenti a tutto questo, insomma, che, perché è evidente che c'è un'idea che ha molto a che fare, secondo me, con quanto la legge Basaglia ha voluto superare, che sta prendendo corpo. Oh, scusate questa divagazione, se avete domande o commenti su invece quanto vi ho detto prima, tanto che insomma rispondere. No? Se non c'è nessun intervento, vorrei fare una piccola, un paio di osservazioni, cioè a parte la costruzione legislativa. C'è anche la costruzione culturale che politicamente non viene difesa, nel senso tutto il portato della legge Basaglia viene lasciato cadere nel vuoto, sia il PDL sostanzialmente che la CD. A proposito, c'è la copertina dell'Unità che fece il giorno dopo dell'aggressione di Tartaglia a Berlusconi, cui veniva raffigurata la faccia di Berlusconi sanguinante e sottoscritto politica. Qui c'è da parlare moltissimo, nel senso c'è l'identificazione della poesia con la violenza, che è una cosa falsa perché è chiaramente infondato questo legame. Poi follia utilizzata come una parola che raccoglie un po' tutte diverse forme di violenza, un'aggressione a una figura istituzionale, aggressione violenta, aggressione inconsulta, improvvisa e spiegabile, cioè tutte figure che tendono a stigmatizzare questa. Appunto la cosiddetta politica. Ma anche a sminuire in quel caso, no? Sì, perché anche si voleva costruire questo qui come matto di modo da disinnescare qualsiasi significato politico del gesto, no? Allora è un matto, un gesto isolato, non a caso l'Unità faccio questa copertina perché voleva disinnescare quella cosa. L'Unità ha l'abitudine sin dagli anni passati di sminuire quelli che non sono d'accordo. E poi questo fatto importante della costruzione della devianza è importante che i giovani, soprattutto se fanno politica, rischiano di commettere reati come si muovono, perché se io vado in piazza con 20 persone e faccio un'assemblea o porto un cartello, rischio di essere indagato e denunciato per manifestazione non autorizzata, per dire. Quando c'era il movimento studente, era a Londra, andavamo a fare lezioni in piazza e c'erano situazioni insostenibili con la questura era di costa che ci chiedevano di spostarci dalla piazza in maniera inspiegabile e noi stavamo lì a parlare. Perciò è un fatto importante che, cioè, secondo me stringe gli spazi di libertà che noi abbiamo e soprattutto tende a incanalarci verso una certa direzione dove ci vogliono incanalare. E quindi da riflettere su questa cosa e se nessuna domanda o osservazioni possiamo sciogliere. No, la bibliografia per chi interessa era stata comunicata, ci sono 3-4 cose che